scrivendo da te più grande corre bello a me mirai a condotte che canta a te sa che è la becca non c'è la fette perché non la gira a te. Mi arrivavo a te con la mia becca bello che me da bello che me rende bello che me da non c'è la fette bello che me da mi arrivavo a te.